Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bentrovati da Francesco Galante, oggi torniamo a parlare di cose interessanti con i nostri amici dell'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e ho con me al telefono Maria Grazia Cangemi dell'ufficio legale dell'ADICO, benvenuta. Buongiorno a tutti i telespettatori. Maria Grazia, parliamo del fatto che insomma cambiano i tempi, diventiamo sempre più vecchi e questo ha un impatto sulla popolazione e anche sulla gestione, no, delle cose normali della vita proprio per chi ha una certa età. Sì, esatto, noi di ADICO abbiamo effettuato una piccola indagine, abbiamo rilevato che dal 2004-2016 c'è stato un aumento degli over 80, in particolare per quanto riguarda la provincia di Venezia abbiamo registrato un più 40%. Però, in relazione a questo, ovviamente le persone anziane, si sa che per la maggior parte iniziano a diventare non autosufficienti e quindi hanno bisogno di alcuni aiuti per svolgere le attività quotidiane. Spesso gli enti di riferimento non accettano delle deleghe, per esempio per il ritiro della pensione o per la richiesta di alcuni documenti. La legge in questo modo ci ha assistito quando nel 2004 ha varato la figura dell'amministratore di sostegno. Ecco, che cos'è l'amministratore di sostegno? L'amministratore di sostegno è una figura che viene autorizzata dal giudice tutelare del tribunale a svolgere determinate attività. Queste attività sono solitamente di ordinaria amministrazione e vengono elencate nel decreto del giudice tutelare. Ecco, tanto per capirci, praticamente questi amministratori di sostegno aiutano le persone anziane che magari hanno problemi di mobilità? E anche, sì, sono persone appunto che stanno per esempio in casa di riposo e che materialmente non riescono a muoversi, ma si registrano anche dei casi limite, per esempio di persone che sono affette da ludopatia e che quindi si rende necessario l'intervento, anche in questo caso dell'amministratore di sostegno, per la gestione dei propri crediti. Ecco, c'era proprio un articolo, credo sui giornali di ieri, di una signora che si è mangiata sui 200.000 euro in meno di un anno e poi ha chiesto aiuto. Questa era in una casa di riposo, evidentemente qua ci sarebbe stata importante questa figura dell'amministratore di sostegno. Esatto, sì, bisogna insomma che qualcuno attivi questa procedura. Solitamente sono i familiari a richiedere l'attivazione della procedura tramite il ricorso al tribunale, ma può essere richiesto anche da altre persone, come per esempio gli operatori di una casa di riposo. Basta presentare un ricorso in tribunale e poi sarà il giudice a nominare un amministratore di sostegno. Spesso sono gli stessi familiari a proporsi amministratori di sostegno, laddove ciò non fosse possibile, in tribunale c'è un elenco e il giudice tira l'amministratore di sostegno fuori da questo elenco e quindi viene fatta la nomina. Quindi il primo passo per istituire questa figura qual è? Se io per esempio ho un genitore anziano che ha certe difficoltà? Bisogna depositare la cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale della propria zona un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. Questo amministratore invece non c'entra con chi ha dei problemi legati anche alla comprensione. No. Immagino per esempio una persona che è malata di Alzheimer. Assolutamente no, questo procedimento è riservato alle persone che hanno ancora la capacità di intendere e di volere. Invece per quanto riguarda chi non è più lucido, quindi viene privato della capacità di intendere e di volere, si attivano altre procedure come l'interdizione o l'inabilitazione. Quelli sono altri procedimenti del tutto che differiscono molto dall'amministratore di sostegno. Certo. L'ADICO in questo può essere d'aiuto? Sì, noi ormai da diversi anni abbiamo istituito il nostro sportello per quanto riguarda l'amministratore di sostegno. Ci occupiamo di svolgere tutta l'attività, di presentare il ricorso innanzi al tribunale competente e di svolgere appunto tutte le attività fino a quando non ci sarà la nomina dell'amministratore di sostegno, quindi l'udienza. Bene, credo che insomma l'Adico come sempre ha la capacità di aiutarci in tante cose. C'è il sito da andare a vedere, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano i numeri di telefono per contattarvi tranquillamente e anche tante notizie interessanti. Grazie quindi a Maria Grazia Cangemi dell'ufficio legale dell'Adico per averci chiarito un po' questa importante figura dell'amministratore di sostegno. Grazie. Grazie a voi. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.